attenzione, attenzione, dalla Sassa di Usilo, Radio Vivaro in modulazione. Andando bene. Sì, a voglia, se sta andando bene. Io non la facevo neanche scaldare, ci sono quelli che la tengono mezz'ora prima scaldando, prima di parlare. Oh, io vi davo subito. No, mai ne ho fatto scaldare. Quello che avevo io era perfetto, uno e l'altro, perché un altro me l'avevo venduto a un amico, poi me l'avevo ricomprato e adesso sono senza HF, mi ho venduto l'857. Mi potevo tenere almeno quello, solo che ho avuto bisogno di soldi e me l'ho venduto. Quello era nuovo, l'avevo comprato nuovo e funzionava benissimo quell'857 della Iaesu. Ok, sì, beh certo che sì, e perché no? C'era un amico, mi aveva mandato anche le foto, che ne aveva diverse da vendere, aveva anche un 757. Bellissimo, funzionava molto bene, non me l'ha fatto sentire. E poi altri tipo di radio, sempre di questo genere così, no? E li sta vendendo, anzi forse ne ha venduto più di una anche, però diciamo che lui li prende e poi le rivende, capito? Io ho capito, e a me me ne interesserebbe una, tanto per avere le HF, almeno ascoltavo qualcosa, e no, non c'è più nessuno mai, cosa c'ha in Kiwi. Non stavo manco accendendo, qualche volta mi accendo così, non te ne viene voglia quando vedi che non c'è nessuno. Ok, in questo periodo magari la gente si sa, si fa un po' di vacanze e lascia stare la radio da parte. Sì, no, ma ne ha sempre, quello ne ha sempre, no? Non c'è problema. Non posso anche dire chi è me, tutto, telefono a Luca e lui ce li ha perché abbiamo mandato 5-6 foto la volta scorsa e tutte di questo genere, una meglio dell'altra, vanno benissimo, me le fate anche sentire e vanno bene. Sì, ho capito, ma chi è Luca Flipper? Sì, parlo di lui, sì, lui ce li ha, per cui se non ce li ha ce li procura e non c'è problema. Sì, ho capito. Sì. Sì, da poco, no? Perché io alle volte gli ho dato dei controlli, no? Andavamo magari in un canale distante per non disturbare a nessuno e dunque le davo i controlli, ma sto parlando già di prima di andare a fare queste vacanze che ho fatto, dai. Sì, ho capito. Aggiù capito. Ma lo vediamo, là. Se riesco a procurarlo, così almeno a tenere in ascolto, ogni tanto a parlare qua non fa che sennò da voi di chiudo, no? Già di solo con questo, figuraci, è piccolino. Certo che sì, sì, ma neanche anche portate di ne ha, che fanno diverse frequenze, belline, veramente belle. E non penso che le voglia troppo costose anche, sicuramente fa anche un buon prezzo, per cui non c'è problema. Sì, infatti, ho un ricevitore, mi busco, così almeno non ho problemi. Con il ricevitore, vedi, problemi non ne ho. Non per nulla, no. Ma speriamo di non disturbare più quando cambiano le frequenze TV. Bella. Chi è bella? Luca, tu sì. Giovanni, io sono Luca, buonasera. Ah, ciao Luca. Stavo prendendo, no, perché nel modo come ho parlato sembrava Luca. Ciao Luca, come va? Beh, mi sono entrato un attimino a sedere, mi aiutesse a vedere. Ci vede anche uno vivo in radio, non te dovia nessuno. Infatti mi ha acceso il Galaxy, così, a farlo scaldare, visto che è a 2.20. C'è un bel ricaldo, stavo facendo alcuni lavoretti fuori, ma me ne sono entrato che vecchio, continuo stasera al fresco. E voi state bene, sì? Sì, io sto bene, sono appena rientrato da una piccola vacanza che mi sono fatto, una ventina di giorni, 20, 22, 25, non lo so con esattezza, comunque, avanza mi craccolo, basta, per quest'anno finito, non è il caso di andare oltre. Va bene così, c'è Natalino, avanti Natalino. Ciao Cassandra, buonasera, ben entrato. Ehi, cosa vuoi? Sto bene anch'io, mi sto riprendendo e quindi sono contento così, piano piano. Ehi, già me l'hai detto, l'importante è che inizi a rilasciare adesso un pochettino, piano piano, poi già ti riprendi come tutte le cose. Bisogna avere solo un po' di pazienza, l'importante è che quello che hai fatto è servito a qualcosa e poi già va bene. È sempre a farci giù, io la radio ormai abbandonata, non c'ho tempo, non ne ho voglia, è così. E tu, come sta andando la tua, bene? Sì, sta andando benissimo, infatti avevo paura che non funzionasse più, perché era già quasi un mese spenta, ma insomma, adesso magari accendo e c'è di nuovo il problema dei puntini, invece no, vedo che sta funzionando bene, per cui sono contento così. L'ho appena accesa adesso, perché io avevo sentito una tua fatta, scrivendo un promemoria delle cose che devo comprare domani, per non dimenticarmi niente, mi stavo facendo la lista, che adesso l'ho interrotta dopo la continua. E ho sentito a Natalino che stava chiamando e ho subito risposto, ma era già una ventina, 25 giorni più o meno spenta, io non c'ero qua, dunque chi l'accendeva? Capito qua? Gappa gappa, e già va bene, ogni tanto bisogna evadere, anche noi siamo andati a Ferragosto, 13, 14 e 15, e basta, ma già eravamo vicini, non eravamo lontani, e poi va, non volevo andare di rientrarmi, perché a me piace stare qua, mi rilasso, mi metto a fare, mi passa il tempo, a mari, a mari, a mari, mangiare, al mare, mangiare, al mare, e va bene, anche quest'anno è andata, no, te ne fa puntini quella, e lui, quella è stata tutta revisionata di nuovo, e le fatte le tensioni, quindi adesso dura un bel po', poi, quando si dovrà fare ovunque, vuol dire che è morta operazione. E allora tata lì, com'è la situazione? Sì, com'è? Siamo qui, ho acceso, molte volte non accendevo neanche, a chi non me ne dà via, non mi veniva voglia di accendere, capito? Cioè non c'era nessuno, intendi un QRM, ho acceso poco fa, mi ho sentito a Giulio e ho chiamato anch'io. Ma tu sai cosa ti dico io, non sto più accendendo. A volte entro in stanza a prendere magari perché ho l'attrezzatura anche per fuori, c'ho un armadio, quindi a volte entro, accendo, lascio acceso, ma la prendo chiuda che tanto che sono QRM, quindi, però a volte vi ascolto ma non entro, tutto qua, adesso mi sono entrato 10 minuti a rilassarmi un attimino e poi riprendo quello che sto facendo, ma per caso che è tornato il caldo, stavo completando le il tubo della coppia umana, capito? Ho fatto anche una cisterna di recupero della coppia umana, può sempre servire, e quindi la stavo completando, gli ho messo il tangit per asciugare, adesso dopo le metto le due curve, i due mani corti, e la gola che c'ho, e buio agli uvinito, e per oggi è fatta. Avanti Giulio, quindi te ne sei andato in villeggiatura, da? Tanto per non stare sempre richiuso dopo tanto tempo, questo è considerato che siamo ancora agli arresti domiciliari, avanti andrà là e si torna, vabbè, dovrei andare a ritirarmi la pensione, ma quello ci vado adesso, ci andrò verso 10, 12, così almeno trovo poca gente, per cui, ma non mi interessa, e se non è a mai un mese che entra è la stessa cosa, va bene lo stesso. Avanti Natalino. Sì, infatti. No, io già sto uscendo la mattina, la sera non sto uscendo da chi, non è venuta di là, non c'è neanche quell'amico mio la sera, e quindi non esco, preferisco stare qua. computer, capito, già la passo lo stesso il tempo. Certo che sì, anche il computer è uno strumento del vago, per cui va benissimo lo stesso, certo. No, addirittura io mi sono preso anche un tavolino che lo posso utilizzare anche stando a letto la notte, per dire, no, se non ho sonno posso stare caricato col computer, perché ho preso un tipo di tavolino che la parte entra sotto il letto e io mi ritrovo il computer proprio a livello di vista giusta per poterci lavorare, capito? Così posso, vabbè, ho anche tante altre cose, avevo il tablet, ma con il computer più grande va anche meglio. Va bene così, avanti qua. No, io non c'ho manco computer qua, niente. È ancora tutto dentro le scatole, non ho piazzato niente, proprio non agisce una gamba. È così. Vabbè, dai ragazzi, vi ho sentito, vi ho salutato. Vado a bermi una cosa fresca e poi mi rimetto a fare quello che stavo facendo. Se ci siete, magari ci sentiamo più tardi, dai. Ok, riprendi Natalia, ascolti finale e poi mi allontano. Buon proseguimento, allora qua. Ma ti conviene più tardi uscire, lascia asciugare bene quella cosa che sta asciugando. E ti conviene andare più tardi a fare. Ah, vai troppo gaggio, non vi decidono, male so. Sì, è sotto la veranda. Capito, una calizzazione che ho fatto in più, però voglio finirla. C'avevo anche le vuote FHS. E niente, no, adesso mi siedo un attimino in veranda, mi bevo una cosa fresca, un tè freddo con mia moglie. E poi mi rimetto a fare, dai. Se no. Ma biocco in occhi, mamma mia, c'è un fresco dentro casa, allucinante, sta un bel bene, pure è un cazzo da morire, vabbè. Dai, vi saluto, se ci siete ci sentiamo dopo, riprendi Giulia. Ok, d'accordo, qua, siamo qua, grazie per essere entrato a salutare, ci sentiamo eventualmente più tardi, Ok, mi ha fatto piacere di ascoltarti, avanti Natalia. E caffè, ciao Claro. Buon proseguimento come le preferisce. Vabbè, avanti Giulia. Ok. Come ti stavo dicendo, mi stavo facendo una lista di quello che devo comprare, delle cose che mi servono. Domani magari mi faccio una scappatina qui da Bricome, vediamo un po' cosa trovo, un po' da Palmieri, un po' da Bricome, vediamo un po' che devo sistemare alcune cosettine qua. E dunque facciamo così. Vabbè, stamattina sono andato, mi sono comprato l'acqua per bere, mi sono comprato, ho fatto rifornimento, qualche compressione ne ho comprato, così ne abbiamo un mese minimo. E dunque sono rientrato, però c'era caldo lo stesso, come stava dicendo pure poc'anzi Claudio, in effetti c'era caldo anche stamattina, soprattutto in macchina. Sì, infatti sta tornando a girare e quindi sta facendo tornare caldo, l'ho notato anche io stamattina. E cosa vuoi giù? Adesso già mi diverto lo stesso, adesso a settembre penso che riprenderò ad andare al campo, già sono un giorno senza metterci piede. Certo, purtroppo questa pandemia ci ha cambiato la vita, ci ha cambiato e siamo stati obbligati anzi a cambiare la vita, giustamente, perché non si può mai dire, e ancora oggi siamo molto ma molto limitati, incontri qualcuno lo devi salutare a distanza, lo devi salutare, a differenza di come si faceva prima, magari che si andava anche a prendere un caffè insieme, e invece va manco lì, vabbè, si fa lo stesso, però non è consigliabile, insomma, ecco. Vai Natale. Sì, io sono vaccinato, mi siedo fuori al bar, c'è quell'amico mio vicino che è vaccinato lo stesso, ci facciamo la chiacchierata e poi me ne torno a casa verso le 11 che dopo devo mangiare io a quell'ora e quindi Sì, se no si è preso a rado, io ho avuto 3 ricoveri, ne ho passato qua. Quello che ho passato io manco altri giorni Niccolò Auro. Purtroppo quando ci sono queste cose è ovvio, però è meno male che ci sono la possibilità di curarsi, perché se lo guai è ora di fatto. Anche perché si sa, hanno fatto la certezza di chi dà ragione. No, sono i pochi che si salvano, o quasi nessuno. Per cui va bene così, solo che adesso gli ospedali di nuovo sono intasati da questi contagi. È sempre più difficile per quello che bisogna stare molto attenti a non incorrere in contagi eccetera o natalizio. Purtroppo i tempi sono quelli che sono, per cui speriamo bene, tiriamo avanti nel modo migliore possibile. Infatti, perché questi che non sono vaccinati non praticamente non rispettano le regole, è logico che sono un pericolo. Infatti io dentro non c'entro al bar, no, mi siedo fuori, esce il camerieri, mi arriva la cosa, il caffè, mi piglio un caffè, cosa di che mi piglio? Un caffè e boh, con quell'amico mio ci facciamo la chiacchierata, da poi andiamo ognuno a casa sua. Certo, è praticamente come abbiamo sempre fatto quando siamo andati insieme al bar, un caffè, un cappuccino, una maca, quando capita, no, non era un problema, però dai, anch'io no, il mio vizio già lo sai qual è, quando vado al bar, assolutamente cappuccino e pasta e buco. Sia che beva mai roba alcolica, posso bere una aranciata, posso bere un succo di frutta, un bitter, ma non bevo mai alcolici, né al mare né da nessuna parte, ma nemmeno a casa. Io a casa non bevo mai roba alcolica assolutamente, nonostante che ho tutto mio, faccio di tutto e di più, però non ne bevo né io né nessuno qua. E anche io non ho alcolici in ISPA, non assolutamente, a parte non ne dire, anche avendolo no, io non ne ho neanche qua, perché intanto meno che si viene poca niente roba analcolica, se ne vogliono altro non ne ho, perché no, non è bello, e quindi non ne tengo neanche in casa. Anzi, ce l'ho una bottiglia di whisky che sa cant'anni va, e anni visi, è sempre in frigo, però non ne beviamo, è venuta di là, poi non ne posso bere neanche io per il diabete, mi hanno detto alcol assolutamente no, ne bevo mezzo bicchiere di vino mangiando, e buh. Certo che sì, ma nemmeno quello, io nemmeno mangiando non bevo niente, solo acqua e basta, non bevo birra, non bevo niente, no, e tu già lo sai, già mi conosci, no, non c'è bisogno che te lo dica, già lo sai, come sono io, per cui va bene così, e vabbè, d'altronde è un vizio che non ho mai avuto, non mi è mai piaciuto, la verità, a me l'alcol non mi è mai piaciuto, né l'alcol, né la sigaretta, niente, no, di questi vizi non ne ho mai avuto, però no, questo non significa proprio per niente, se uno si vuole bere un bicchierino va benissimo lo stesso. Interessante che una persona non si abbruttisca poi con l'alcol, ma quando uno va e si beve anche un bicchiere di vino al bar, dove vuole bere, sempre in maniera limitata, se poi uno si abbruttisce con l'alcol, allora lì sono restato nel gambo, io l'ho preso così. Infatti è vero, a me mia moglie che me lo fa bere mi mezzo bicchiere, perché se non si lascia dopo a me, si ve o non ve, non mi fa di nessun effetto. Me lo fa bere perché sempre con queste misurazioni della glicemia me ne tolgo sempre sangue e cose, bevi mezzo bicchiere non ti fa nulla, e me lo bevo. dicevo, anche se non è che se c'è o non c'è non mi fa nessun effetto giù. Se è stato bambino non avevo in nulla. A pranzo solo me lo bevo mezzo bicchiere, neanche un bicchiere, mezzo bicchiere. Beh sì, diciamo che è anche consigliato dai medici, un bicchiere di vino a pranzo quando nei pasti è consigliato anche dai dottori, no, ma io non lo bevo proprio perché non mi piace proprio, non mi piace il sapore, è un problema mio, io non mi piace il sapore della cosa alcolica, ecco qual è il problema. Purtroppo è così, la mattina ad esempio in estate io faccio colazione adesso a casa in questo periodo sempre quando faccio colazione a casa yogurt, una merendina o una cosa, oppure che so io una pesca noce per dire o due, e queste cose così, ma fuori da casa no, niente, al massimo un cappuccino. È una base quando capita che va a base, ma sono 2 anni quasi di andare a base, cioè da quando sia la pandemia non sono più entrato a base nella maniera più assoluta, anzi non mi sono incontrato più nemmeno con quell'amico che mi incontravo tutti i giorni per andare al bar a fare colazione, e non si è mai visto per 2 anni già, oppure magari dopo verso le 11, 11 e mezzo andavamo lì da Antonello all'angolo di Pianura, un panino imbottito o una focaccina, insomma, ecco, quella lì era la mia colazione. Dopo il cappuccino magari c'era anche una focaccina o un panino imbottito da Antonello che c'è lì via Pascoli. Io capito, e già lo so, quindi io per esempio l'umano mi fa un emagno meglio è, figurati, a me mi piace il panino imbottito, però mi sba adesso. Lo so, sì, questo sì, io non è che sono un grande mangione di pane, però diciamo che la mattina un panino me lo facevo, allora, invece adesso manco io sono buvente. Ma anche la sera, nemmeno adesso mangio io, la mattina yogurt, poi il pranzo e la cena, basta. Qualche volta una merenda la sera così, ma questo è considerato anche per consumare gli affettati che abbiamo, se no manco io mi tagliere stabilizzando, anche se sono tutti affettati sotto vuoto, non si guardano, durano mesi, per cui se poi c'è la data di scadenza non è un problema, va bene. E così è andata lì, e cosa vuoi fare? Non è che ti puoi, non ti puoi riempire lo stomaco, no, una volta quando ero giovane già mangiavo abbastanza, ma oggi non più di tanto, ormai non ce la faccio più, non ne ho più voglia di mangiare come una volta. Sì, anch'io sono così, non ce l'ho più quell'appetito che avevo prima, e a colazione prima a vera se mi rimagnavo qualche panino, non uno, qualche panino, prima già mangiavo, ma adesso no, poi con la malattia che ho, più di chi tu tanto lo puoi mangiare, già sto mangiando per ingrassare, perché sennò ero a 52, sono arrivato già a 60, capito? Mi ha detto arrivare almeno a 62 la dottoressa, e così avrei mai fatto. Beh certo, io invece qualche chilo l'ho ingrassato, ma l'ho ingrassato perché sono sempre a casa e il problema è quello, adesso mi sono pesato anche da poco, ho preso 83.500, si vede buona maniera, eppure come mangiare non è questo eccessivo mangiare che faccio, però è utile che quando sei a casa non fai niente, vai dalla poltrona allo divano, dallo divano alla cantina dove c'è il computer e così via, tutto quello il tragitto e i passi che metti, per cui è chiaro che anche se mangi poco qualche chilo te lo prendi sempre, è così. Sei la vita sedentaria, non stai lavorando più, non ti sei muovendo, è paghi su che hai ingrassato, no, pazzo. siamo limitati, non ci possiamo muovere adesso e quindi giustamente uno ingrassa. E io, vabbè, adesso raggiungiamo il peso che mi ha detto la dottoressa e poi cerchiamo di mantenerlo. Eh beh, certo che sì, e bisogna seguire anche una certa regola, perché se no si finisce a schifio. No, io di solito il mio peso quando lavoravo in genere era intorno ai 75, 76, così. Poi ultimamente quando uscivo ero sempre intorno ai 78, 80, 78, 80. Adesso con 83 e 500. E la vita sedentaria, quella conta, conta molto, altro che se conta. Però appena che si sblocca la situazione riprendiamo il nuovo sistema di vita, e per cui bisogna dimagrire anche quei 2-3 kg, 5 kg, insomma, che ho in più. Speriamo di uscirne da questa pandemia, ma io sono dubbioso perché ne sto sentendo troppe, ne sto sentendo. Adesso magari ci mettono, torna in zona gialla, quanto ho capito, la Sicilia è già in zona gialla perché non rispettano le regole, non si vuole vaccinare, c'ha niente, ma io non ne so. Poi si pigliano i contagi e contagiano pure all'altri, perché anche noi che siamo vaccinati possiamo essere contagiati giù, e quello è il brutto. Infatti il rischio è quello. Poi così, stazione protetta che questo va, nel mondo vogliono vaccinarsi, e adesso siccome il governo sta mettendo delle regole un po' più pesanti, più ferre, e allora la gente sta facendo delle manifestazioni, anche tu l'hai stato minacciato, anche tu, uno di quei professori che sei che parla in televisione, sempre stato minacciato con le norme, con lo pensavo, insomma, sì. Non li fa, quello che dice lui, allora hanno bruciato, eccetera, ma qualcuno hanno schiato, qualche giornalista anche da poco, proprio questi giorni l'hanno picchiato, quelli che vanno per interviste, eccetera, insomma, anche per dimenticare, manca anche il velo, quando manca, importante c'è. Sì, già l'abbiamo sentita, già l'ho sentita, Giulio è che stava parlando e non l'ha sentita, l'amico tuo giù mi è tornato. Buonasera a tutti. Buonasera. No, io la pensante non sento assolutamente. L'importante c'è, Giulio, ti passa qua, dai, rimango in ascolto. Luca, non ringrazia. Finché non è un grande, vuoi sapere come si dice, tu guarda. Cosa ne dici? Ma è bene, ma non è spiegato. Da te forte arriva qui. No, a me non lo passa Giulio, fa bip, bip, bip e basta, però non lo passa. Quello passa invece, non sento niente, lo disturbo parecchio. Va bene, dai, continuate, rimango in ascolto, ci sentiamo, tanto. Non ci hanno vado nulla, poi incolpano la gente, cazzo, che neanche ne ha di radio, neanche ne sta accendendo, per carità di Dio. Ciao, ciao. Ciao, Cla, ciao. Rimango in ascolto pure io, va. Ciao, ciao, Cla, ci sentiamo. Adesso ci faccio in macchina io, vedo chi può essere, dai. Non ce lo puoi prendere. Tanto già sappiamo che un misurato è bella, è un poveretto, è un momento scarso, per cui non c'è da preoccupare. È annoiata, basta. Vuole che smettiamo di trasmettere, capito, Cristian? Solo quello vuole. Ma che schifo. Veramente che schifo. Forse vuoi tenere tutto il tuo lato. Ciao, ciao. Ma io te l'avevo preso a modulare, siamo andati a sul petto, adesso devo già chiudere. No, mi piace più a me così, no, che meglio niente, guarda, sto così bene, lo manco, non intendo nulla. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Claudio. Ecco dove va, lasciamolo fare. Così, con me, lasciamolo pulire sul polo. Attenzione alla passata, tanto non la faccia a Giulio, me. Ehi, hai passato il passato, che produttore, ma me lo sono accorto. E finisce sotto qualche termine. Così abbiamo per la finisce di stare l'imbecille. Tanto quello due è quello due rimasto, mi sa che no. Cosa vuoi fare? La fonda, come dice. E invece qui siamo tutto bene. Ma qui già va bene, dai, non è ok. E a pugno, non lo so, sono stesso, sono qui. Ho capito. Vabbè, buttami a casa voi, ho notizia. Adesso la sta mettendo a cosa? A colpe la portante. Sì, lui è buona. Sì. Che ci sono, non so se ti arrivo. Sì, ne arrivi, come no, quanto che ti ne arrivi, a Puglia. Beh, vabbè. Cosa fai la Puglia? D'altronde, uno che mandava la Puglia in un certo posto, non può fare diversamente. Cosa fa la vita? Adesso, Giulio, riprendi. Ok. Scusaci, ma purtroppo è così. Ciao Cristian. avanti chi è la portante? C'era il portantista comunque, non so se lascia parlare. Ora 10. Giulio, tu c'è? No, che c'è? Che c'è? C'è Maria? Ok, stavo facendo la prova, vedo un po' come stavo uscendo. Benissimo, Gian Maria, come sempre, ti ascolto benissimo. Ok, grazie. No, sembrava che era bloccato, invece che sta funzionando. Ok, grazie, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao, alla prossima. Anche il segnale è buono, ottimo. Ti ringrazio ancora, ciao. Ciao, ciao, ciao. Franco! Ehi, Giulio! Ciao Franco, guarda che siamo nel canale riservato. Ah, ok. Ciao Gian Maria, se mi stai ascoltando, ci sentiamo. Ciao Giù, ci sentiamo Giù. Tutto bene? Sì, tutto bene Gian Maria. Sono poc'anzi, c'era la portante, allora abbiamo, siccome abbiamo un canale creato da noi, dunque siamo lì adesso, in questo momento siamo lì. Ok, grazie Giù, ci sentiamo, da buon proseguimento. Ciao. Ok, ciao Giovanni, ciao. Mi ha fatto piacere di sentirti. Mi dispiace che non posso restare qua perché sono nell'altro canale, per cui ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo, ma già te lo farò sapere comunque, così almeno potrai arrivarci anche tu. Ok. E mi stavo spazzolando, ho dato una portata, e mi ha risposto l'altro amico, che volevo un controllo se stavo uscendo qua. Va bene Giù, ci sentiamo, dai, anche a me ha fatto il piacere, ti ho sentito. E ci sentiamo alle prossime, già lo sai che sono sempre su 23 io, ok? Ciao Giù. Ok, ciao Giamagli, io ero quasi un mese in girella, così dunque non avevo acceso più, per cui non avevo sentito più nessuno. Infatti avevo paura anche che non funzionasse più bene la radio, perché già lo sai che fa difetto quando rimane sempre spente, allora ho visto che invece non è successo niente e sta funzionando bene. Però poi poc'anzi c'era la portante e allora noi già da tempo abbiamo studiato quel sistema e andiamo lì. E siamo in 4 o 5. Insomma, subito. Sempre queste persone ci sono, arrastiguti si digliano, per carità, vabbè, già avete fatto bene, avete cambiato. Ok Giù, ci sentiamo là, ciao Giù. Ok, ciao Giovanni.